Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ci siamo con il sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Vi anticipo che in questo sabato parleremo molto di TV, sarà perché io ho un po' voglia di riposo, di vacanze, di starmene sul divano con la coperta sulle ginocchia, vabbè, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana e a questo punto anche un po' per le vacanze che arriveranno prestissimo. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia fino alle 18 appunto in diretta, anche voi però per cortesia tenetemi compagnia anche se state andando a fare gli acquisti, se siete in macchina tra una tappa e l'altra dei vostri regali di Natale. Ci sono due strumenti comodissimi per contattarci: l'SMS o il numero per i vostri WhatsApp, va sempre bene il 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chiusa qui Twitter cancelletto ISDV. Ma scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme al sabato del villaggio con il gastronauta. Oggi parliamo di una tendenza attualissima: andiamo a mangiare al mercato. Le tecnologie con Enrico Pagliarini. Oggi parliamo di musica in streaming. Poi anche questa settimana, che la forza sia con noi, andiamo a sentire come va il weekend in sala, ovviamente nel segno di Star Wars, come privarcene. Ma prima, non è Natale se non c'è che cosa? Polizie, ci sono reclami su certi farabutti che vanno in giro fingendo di essere ciechi e storpi. Io vi aiuterei volentieri, ma ho perso la vista quando ho messo il piede su una mina in Vietnam nel 72. È stata un'esperienza terribile. Sei stato in Vietnam? Anche noi. Dove? Io stavo a San Ben, Din Don, Don Din. Sono stato un po' dappertutto, in un sacco di posti. In quale unità eri? Stavo con i berretti verdi, squadre di unità speciali, comando tattico aerotrasportato specialistico, poi con l'unità di battaglione. Però era una cosa segreta, io ero l'agente arancio, io mi chiamavo in codice così, agente speciale arancio, mi chiamavo così. Aerotrasportato, eh? Io ci vedo, e ho anche le gambe, io, oddio, guardate, ho due gambe, riesco a camminare, Gesù! Miracolo, Gesù, grazie, che bello, non ci posso credere, grazie. Sono ridiventato normale, guardate, cammino, si è compiuto il miracolo, chiamatemi Lazzaro. Sono guarito, Dio vi benedica, siete stati stupendi tutti e due. Allora, 24 dicembre, ore 21:10, su Italia 1 c'è una poltrona per due, no? Perché se non c'è una poltrona per due in televisione, non è Natale. Ma cosa possiamo guardare? Per chi come me non vede l'ora di mettersi sul divanino con la coperta, guardare la TV, in famiglia o da soli, questo non importa, è secondario, basta che ci sia qualcosa di bello da vedere. Lo chiediamo subito a un'autorità, al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Buongiorno, direttore! Buongiorno, Marta, buongiorno a tutti. La prima cosa che ho controllato con comprando TV Sorrisi e Canzoni che ci fosse una poltrona per due, c'è. Sono fondamentale. Tra l'altro, ragazzi. Nel numero che uscirà martedì di Sorrisi abbiamo fatto proprio uno speciale su una poltrona per due. Non ci posso credere. Sì, con tutto, infatti mi hai un po' rubato l'idea. Perché abbiamo visto che tutti i segreti di questo film, tutte le cose che magari la gente non sa o ha un po' sentito dire, tipo che era un film pensato per Gene Wilder e Richard Pryor, poi dopo invece cambiarono idea, Eddie Murphy non era ancora famoso, Dan Aykroyd avevano qualche dubbio perché era appena morto John Belushi e sembrava un attore ormai finito quasi. Ci sono un mucchio di curiosità su questo film che, come ricorderai, qualche tempo fa Italia 1 decise di non mandare in onda il 24 di dicembre, ci fu una rivolta popolare a tal punto che poi lo rimandarono in onda. È uno dei miei due classici, io voglio vedere sempre una poltrona per due e poi voglio vedere Frankenstein Junior a Capodanno. Sei servita. Che poi la cosa curiosa è che questi film uno se li può vedere quando vuole, perché abbiamo tutti i DVD, abbiamo tutti la possibilità di vederli nelle varie piattaforme, però niente come vederli in televisione, magari con le interruzioni pubblicitarie, la sera della vigilia o il giorno di Capodanno. Invece io la sera di Natale poi mi guardo Vacanze di Natale, soprattutto per la famosa frase, e anche questo Natale puntini puntini puntini. Ma a parte questo è un gran classico. Vabbè. Sì. Direttore, cosa ci consigli in questi giorni da divano e copertina? Allora, innanzitutto, come abbiamo già fatto capire, Natale è il momento della grande rivincita dei film in televisione, no? Per tutto l'anno noi vediamo serie, varietà, eccetera, poi arriva Natale e invece arriva il cinema, il grande cinema, e comincia appunto con Una poltrona per due, ma c'è di tutto, ci sono proprio delle cose che sappiamo in memoria, c'è Sette spose per sette fratelli, il giorno di Santo Stefano, c'è Hollywood Party il 28 su Rai Movie, c'è Quattro matrimoni e un funerale su Rai Movie sempre il 29, c'è Qualcuno piace caldo il 30. Io non esco di casa, ma io sto... E poi il 31 ci sono due cose in contemporanea purtroppo, quindi uno deve fare un po' di zapping, perché in attesa della mezzanotte, mm-hmm, chi non ha voglia di uscire o chi vuole uscire dopo, anche tenerlo lì come sottofondo, c'è E.T. su Italia 1 e poi il mio film preferito di tutti i tempi, Notting Hill, su Rete 4. Oh, che meraviglia, che bello, mi piace, sì, molto come proprio, programma del Capodanno. Altrimenti ci sono ancora The Artist, per esempio stasera già si comincia con un clima prenatalizio, con Il sorpasso su Iris, che è un film che non è proprio natalizio, però è, diciamo, uno dei grandi film che fa sempre piacere rivedere. Certo. E invece poi c'è il pomeriggio di Natale, che è interessante, il pomeriggio di Natale, che è un altro momento di cinema in TV, no? Dopo il pranzo, quando siamo tutti lì un po' rimbambiti, per cui si può anche vedere un film che si è già visto e sonnecchiare. C'è Bianco, Rosso e Verdone su Canale 5 alle 5:30. E poi c'è Miracolo sulla 34esima strada, che è un altro super classicissimo di Natale. Belli. Senti, questo Natale io vedo appunto il tuo numero in edicola questa settimana, c'è lo speciale di Panariello 22-23 sì, dicembre. Sì, quindi... sì, no, abbiamo trascurato tutte le cose normali, che poi normali non sono, c'è lo speciale di Panariello in diretta, tra l'altro, quindi è molto carino l'idea. Beh, non è più scontato peraltro la cosa che sia in diretta, no, perché ormai... No, tra l'altro la diretta è la vera essenza della televisione, perché come diceva Achille Campanile, che è stato il primo grande critico televisivo, oltre che uno dei più grandi scrittori italiani, tutto il resto è cinema, anche in TV, se non lo dai in diretta. Quindi la forza della televisione è la diretta. L'idea è che Panariello faccia due show in diretta da Livorno, da un teatro di Livorno, rende tutto anche più così imprevedibile, perché in qualsiasi momento tu ti immagini che possa succedere qualcosa. Tipo che arrivi Carlo Conti, no, visto ecco, o Piero Azioni, questo diciamo non è proprio imprevedibilissimo, no? No, nel però... senso che comunque mi sembra un po' un che si prenda l'abbrivio verso un Sanremo che possa poi alla fine diventare un po' appannaggio, lo diciamo già l'anno scorso, ma quest'anno sì, più che mai, dei toscani, sì, visto che Panariello Piero Azioni pareggia sicuro. Ormai abbiamo, perché anch'io sono di Lucca, sono di un'altra contea, sì, però insomma... Sì. Abbiamo preso in mano il Festival di Sanremo, diciamo, quindi. C'è anche un'altra cosa carina, sì, sì. La vigilia di Natale, che è Giacomo Voyager, che è andato a intervistare Babbo Natale. Vabbè, Voyager vero, non Katzenger, Voyager vero, non Voyager quello di Croz. Voyager vero e Babbo Natale vero, tutto vero, direi, certo, tutto vero. E quindi anche questa è una cosa interessante, perché fa vedere il vero Babbo Natale per tutti i bambini che lo aspettano, spiega anche il motivo per cui Babbo Natale riesca a fare tutto quanto in una notte, cioè lui ferma il tempo, noi non ce ne accorgiamo, ma... lui ferma il tempo e nel frattempo ci porta i regali. E poi spiega anche invece per gli adulti, diciamo, tutto quello che ruota attorno al business di Babbo Natale, in Finlandia, a Rovaniemi, dove c'è addirittura proprio una specie di parco a tema dedicato a Babbo Natale. Intanto, direttore, Francesco da Lecce dice che secondo lui è Natale quando c'è il film di Mamma ho perso l'aereo e qualcuno che non si firma, ma io appoggio in grande la mozione, Parenti serpenti di Monicelli. Fantastico. Beh, sì. Anche perché quello è una cosa che ci succede, no? Cioè, certo, diciamo, è quasi un reality, uno lo vive e poi lo vede anche al cinema, perché è uno dei grandi classici di Natale, con l'albero, presepe, regali e panettone, anche e la lite in famiglia, ecco, no? ecco la tensione più che la lite, la tensione poi nelle stanze accanto si va a dire dai su, molla, perché adesso invece è Natale, bisogna fare la pace, quindi Parenti Serpenti è, diciamo, perfetto per Natale, per un certo tipo di Natale, esatto, almeno. Esatto, per così, un po' per esorcizzare, un po' per la catarsi. Come te lo vedi tu questo 2016 invece che arriva in televisione? Allora, come dicevamo già un anno fa, non vedo grandissimi scossoni, perché all'inizio, diciamo, la prima grande partenza del 2016 è Don Matteo, quindi è vero che nel primo episodio ci sarà Belen, quindi diciamo è uno scossone, ma lo sarà soprattutto per Terence Hill, però diciamo è Don Matteo. Poi ci sarà una specie di periodo di attesa del Festival di Sanremo, che quest'anno è basso come la Pasqua, è subito i primi di febbraio. Sì, sì. Poi ci sarà farà ancora freddino. Ah, l'Isola dei Famosi. Poi c'è certo. L'isola dei Famosi, che pare ormai sicuro che verrà subito dopo il Festival. E poi c'è questo grande dubbio che in questo momento a Rai 1, se trasmettere subito dopo Sanremo e sfruttare il traino di Sanremo i nuovi episodi di Montalbano o i nuovi episodi di Braccialetti Rossi. Ah, beh, due serie amatissime. Due grandi ritorni. Poi tra le altre cose c'è, per esempio, che le Iene raddoppieranno e avranno due conduzioni diverse, ancora non si sa quali saranno. E poi dovrebbe arrivare Rischia Tutto, ecco. È il remake di Fazio, del celeberrimo programma di Mike, che andrà su Rai 3, ma che Fazio vuole fare in una maniera, da una parte super ortodossa, filologica, con tutte le liturgie già messe in piedi, compreso il signor no. Io tra l'altro sono nella commissione che sta selezionando i campioni, i futuri campioni, sì, solo per il mio campo, che è quello, ammesso che io sia un esperto, quello dell'Inter, ovviamente, esatto, quello dell'Inter, no, quello della televisione, della musica e dello spettacolo, quello di Sorrisi, e ho visto dei personaggi già veramente molto agguerriti, cosa che è molto curiosa, considerando che oggi non c'è più bisogno di essere molto esperti e mnemonici, basta andare su internet e in due minuti il dubbio, cioè non hai bisogno di studiare. Certo, invece ci sarà anche questo. Invece questi si devono ricordare tutto. Intanto guarda che arrivano un sacco di suggerimenti di film che io direi che potrebbero fare un palinsesto perfetto. Storia di Natale con Bill Murray. Guglielmo scrive Mary Poppins. Dov'è Mary Poppins? Sì. The Family Man con esempio... Nicolas Cage. Nicola scrive. Certo. E poi c'è, dimenticavo, il primo a Capodanno, su Rai 1 in prima serata c'è una grande prima in chiaro, che è Frozen, e quindi lì c'è proprio secondo me tutta la famiglia riunita, perché è uno degli ultimi grandi capolavori Disney. E poi ci sono anche quelle delle cose un po' più cattive, tipo c'è Gotham su Italia 1, ci sono poi anche quelli a cui invece diciamo il Natale piace per al contrario, e quindi vanno a cercarsi delle cose diverse. C'è per esempio Imagine, che è il nuovo programma di Saviano su DJ TV, che racconta l'anno che sta finendo, e lì diciamo purtroppo non sarà un'atmosfera di festa, un po' per Saviano che diciamo in genere non è allegrissimo, no, a me piace molto, per carità, però diciamo si occupa di cose non allegrissime, e dall'altra parte perché c'è stato un anno così e così, diciamo. Ecco. Se poi uno vuole strafare, va su Netflix, si guarda Narcos, so che tu lo saprai a memoria, e allora lì proprio è il Natale proprio al contrario. Ecco. Mentre hanno fatto un Very Merry Christmas, che invece è più natalizio, più ortodosso. Sì, ecco, con ecco. Bill Murray, sì, con grandi star di Hollywood, e quello è più tradizionale, ma è bizzarro lo stesso, no? È molto molto buffo. Comunque devo dire che gli ascoltatori ci mandano un sacco di titoli di film, Robin Hood, The Family Man, appunto, dicevo, che vuol dire che forse c'è ancora voglia di vedere cinema in TV che non si vede più, chi lo sa? Sì, è questo grande mistero di, appunto, che nonostante, ripeto, il fatto che noi possiamo vederci il cinema quando vogliamo, alla fine andiamo a preferire sempre la messa in onda della televisione, con anche risultati buoni dal punto di vista degli ascolti, e questo dovrebbe fare anche un po' riflettere i dirigenti televisivi, no? Che tante volte mandano repliche di repliche di repliche, mentre invece di programmi normali, che lì si vede la, il vecchio, no? Perché magari ti parlano di un fatto di cronaca avvenuto un mese prima o un anno prima, mentre invece il cinema ha questa sua capacità di essere senza tempo, no? Oh, voglio segnalare un'ultima cosa prima di salutarti e farti gli auguri di buone feste. Sorrisi.com, il vostro sito, ha veramente ha lanciato un'iniziativa molto carina che mi sento di condividere e di appoggiare in pieno, perché avete inventato delle cartoline di Natale di personaggi famosi che possono essere condivise e il ricavato va all'AIRC, alla ricerca contro il cancro. Noi abbiamo chiesto a dei personaggi famosi di disegnare, quella la cosa, diciamo, buffa, cioè di fare loro proprio un disegno, di mandarcelo. Noi l'abbiamo trasformato in cartolina digitale sul nostro sito, che appunto è sorrisi.com. Uno la può scaricare e mandarla via mail a chi vuole, oppure condividerla sui social. Ogni volta che lo farà, noi e solo noi daremo un contributo all'AIRC, quindi è tutto assolutamente gratuito. E c'è anche la possibilità invece di partecipare all'asta su Charity Stars per avere l'originale, il disegno originale, avere un Garco originale, un Tiziano Ferro originale, un Checco dei Modà non originale perché l'ha fatto fare alla figlia, e un Gerry Scotti, i Pooh, Christian De Sica, Manuela Arcuri. E lì è anche divertente, secondo me, anche se poi uno lo condivide, lo manda, ripeto, fa fare a noi di Sorrisi un'azione buona, perché siamo noi che paghiamo e non chi scarica o chi condivide. Però allo stesso tempo anche solo vedere chi è bravo e chi non è bravo a disegnare, perché ovviamente ci sono i maestri del disegno come Tiziano Ferro, che sì, lui è bravissimo. Bravissimo, no? Poi penso che anche tu avrai ricevuto i suoi auguri personali di Natale, e lui fa sempre un disegno particolare ed è un maestro. E poi, ripeto, ci sono quelli che invece sono, come dire, volenterosi, diciamo così. Ecco. Beh, anche noi che non sappiamo disegnare, ci possiamo fare gli auguri lo stesso. Esatto. Grazie direttore, grazie Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, e ci risentiamo presto, ormai saremo già nel 2016, parleremo della TV che verrà. Grazie direttore, a presto. Ciao, grazie a tutti. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il traffico. Il sabato del villaggio. Continuano ad arrivare titoli di film che vorreste vedere in TV. Mi piacerebbe che davvero qualche direttore di qualche rete, qualche autore di qualche palinsesto vedesse quanta voglia di cinema c'è ancora in televisione. Noi voltiamo pagina perché sono le 15-16 minuti, è il momento del nostro gastronauta che oggi voglio introdurre così. Questa mattina voglio andare al mercato per sentirmi un po' più allegro, per sentirmi un po' più attivo del dovuto. E non mi sembra il caso di stare ancora nel letto, anche se ieri sera ero più storto che dritto e ho dormito pure con un occhio aperto. Voglio andare al mercato, cantavano tanti anni fa i Modà, prima, veramente prima dei loro grandi successi. Ho recuperato questa canzone perché so che oggi Davide Paolini ci vuole portare al mercato. È così, Davide, buongiorno. C'è voglia di mercato, tanta voglia di mercato, perché in Italia stanno così esplodendo tutti i mercati dove si può mangiare, perché la novità è questa. Il mercato dove si mangia, anche se storicamente il mercato è sempre stato un luogo dove si mangiava. Allora io devo ricordare quelli storici, la Vucceria e Ballarò a Palermo, con Pane Cameusa, Pane Panella, e poi ancora a Catania con Fiera Oluni o la Pescheria, dove c'è un ristorante, una trattoria che si chiama La Marina, molto interessante per il pesce. E soprattutto uno dei modelli principali di questi anni è sempre stato, e credo che molti magari turisti italiani siano in procinto di partire per Barcellona, e allora io do un indirizzo: andate alla Bucheria, dove c'è un posto, un banco dove si mangia davvero molto intrigante, che si chiama Pinoxo. Ecco, con lui conoscerete un cibo molto particolare, molto terra terra, ma anche vi darà indicazioni su Barcellona. Ma ora dalla storia passiamo all'attualità, perché appunto questa voglia di mercato che dicevamo all'inizio sta esplodendo, perché a Bologna è stato aperto il mercato di mezzo, che era un mercato che esisteva nel 600-700, e lì si può mangiare, c'è un macellaio bravissimo, che si chiama Zivieri, che fa una battuta a coltello veramente che vale la pena, quindi vale la pena chi va a Bologna o chi è bolognese di andare a assaggiare questa prelibatezza di Zivieri. Poi, tutto al coltello che si mangia quindi lì sul posto? Si mangia sul posto, sì, io darò tutti i posti dove si mangia ora, diciamo, pronto sul banco. E andiamo a Firenze, perché anche Firenze ha dei mercati storici, il mercato di San Lorenzo, per esempio. Ora il mercato di San Lorenzo c'è una parte storica in basso e una parte nuova completamente in alto, però io vi consiglio al mercato di San Lorenzo di Firenze, che tra l'altro è da visitare perché dà proprio un qualcosa della fiorentinità. C'è un locale dentro, un posto dove si mangia, che si chiama Nerbone. Bene, Nerbone è famosissimo in tutta Firenze, ma anche e soprattutto con gli stranieri, per il panino con il lampredotto. E poi anche uno spettacolo, sedersi lì davanti a questo tavolo, vedere questo personaggio come dialoga, questo personaggio che appunto parla un fiorentino molto forbito, e quindi molto forbito voglio dire di quelli fiorentini che vanno giù duro anche con il linguaggio. E quindi Firenze sicuramente c'ha sopra un mercato completamente nuovo, completamente diverso, anche lì si mangia. E poi andiamo a Milano, arriviamo a Milano. Ecco, Milano sta esplodendo questa voglia di mercato. Cioè, è stato aperto da pochissimi giorni il mercato del suffragio. Quindi in Piazza del Suffragio a Milano c'era un vecchio mercato comunale, lo hanno per così dire preso per gestirlo, 6 o 7 artigiani di vari settori, dal pane alla panetteria, alla pizza fino al pesce, poi c'è frutta, verdura, gelati, quindi si può sia acquistare che mangiare, e devo dire che il posto tra l'altro è molto carino, abbastanza centrale, quindi non è che ci sia da fare molta strada, è mercato con cucina si chiama proprio, e quindi questo dà già l'idea di che cosa succede. E poi sempre a Milano, nella nuova Darsena, anche lì c'è un mercato dove c'è un altro posto che io diciamo indico e consiglio, c'è la macelleria sociale, la macelleria sociale dove si mangiano tutti i piatti di street food, però della cultura italiana, ma veramente fatti molto bene, lo gestisce un noto diciamo patron di mangiare di strada, che è un locale che esiste già da anni a Milano, che appunto è il re dello street food diciamo di qualità. Poi possiamo ancora andare al mercato al Testaccio a Roma, dove si sta per insediare, questa è una novità una nota chef stellata che si chiama Boverman, che ha preso 2 banchi e che anche lei qualche volta andrà a cucinare. E poi ancora ad Alghero, e poi ancora a Torino a Porta Palazzo, insomma veramente ormai il mercato è tornato alla sua, come posso dire, storicità. Si compra e si mangia direttamente, ed è una cosa anche molto ma molto simpatica, perché si cucinano cose fresche, quelle dei fruttivendoli, quelle dei macellai, quelle dei pescivendoli. Freschina la stagione adesso, bisogna prepararsi soprattutto per la primavera, perché adesso è bello freschino andare a fare un giro al mercato. Beh, guarda che i mercati ormai sono tutti chiusi. Allora in questo caso questo sì. Mercato del suffragio è chiuso, poi il mercato di mezzo a Bologna è chiuso, quindi quelli aperti rimangono quelli tradizionali, quelli che ho detto prima di Palermo o di Catania. Ci hai già citato Firenze parlando di mercato, però so che è proprio a Firenze oggi ci vuoi portare nel tuo itinerario, Davide. Sì, vi voglio portare a Firenze e vi do una serie di luoghi dove andare, uno diverso dall'altro, proprio anche per tutte le tasche e per tutte le richieste. Innanzitutto parto dalla fiaschetteria da Mario in via della Rosina, proprio vicino al mercato di San Lorenzo. È un posto storico, specialmente per chi ha studiato a Firenze come sottoscritto. E prima era aperto anche di sera, ora è aperto solo a mezzogiorno, c'è sempre da fare la fila perché diciamo la qualità è veramente molto alta, con un prezzo molto ragionevole, e si mangia zuppe, fagioli ribollita, penne strascicate, si mangiano i fagioli al fiasco, si mangia anche un'ottima bistecca, e si viene e si beve vino al fiasco. È un posto che consiglio caldamente perché è veramente molto incredibile. Il problema è in questo caso che bisogna avere tanta pazienza, aspettare, perché Romeo, il figlio del patron che è morto, Mario, è intransigente. Bisogna rispettare la fila anche agli amici di un tempo, come era il sottoscritto. Democratico. Sì, non c'è niente da fare. poi salendo una trattoria tipica fiorentina da Ruggero sulla via Senese. Qui si mangia un ariste, un arrosto di coniglio molto buono, si mangia la pappa al pomodoro ovviamente, come può mancare la ribollita, e poi si mangia, e non rientrano nella tradizione, però devo dire che gli spaghetti alla carrettiera qui veramente sono di grandissima bocca buona, nel senso che se ne vorrebbe sempre mangiare. Poi andiamo verso, diciamo, cresciamo e andiamo al Cibreo, il Cibreo di Fabio Picchi. Fabio Picchi è uno dei, così, dei ristoratori più famosi di Firenze. Io dico che ormai lui ha occupato Cibreo Square, l'ho chiamata la sua via, perché c'ha ben 4 locali, c'ha il ristorante, la trattoria, c'ha il bar e c'ha il circolo. Un circolo dove si fa cultura, si fa teatro, dove si mangia ogni sera, quindi c'è uno spettacolo con il mangiare sempre fiorentino. Devo dire che da lui chi vuol mangiare il collo di gallina ripieno, le steppi in inzimino e le parmigiana vada tranquillo, perché sicuramente mangia veramente come Dio comanda. E poi continuando andiamo all'Ora d'Aria, che non andiamo in carcere ma andiamo in un posto che era vicino al carcere, ora si è trasferito, di Marco Stabile, che tra l'altro è presidente dei Jeunes Restaurateurs d'Europe, dove qui si mangia un piatto che quando lo dico qualcuno dice: beh, non c'è bisogno di andare in questo locale. Eh no, cari signori, provatelo: spaghetti, olio e parmigiano. Ecco, lo spaghetto ha una cottura particolare, l'olio è extravergine d'oliva, il parmigiano è di 36 mesi, però quando lo si mangia dice: beh, provo a farlo a casa. No, è un po' difficile da riprovare, ci ho riprovato ma senza grandi risultati. Sono molto curiosa, perché un piatto così semplice, per essere di così grande qualità, delle materie prime devono essere favolose. Il segreto è nella cottura, anche il segreto è nella cottura, perché lo cuoce in più momenti, in maniera diversa. È lungo da spiegare, però è un tipo di cottura, secondo me ci vuole tempo, però alla fine è un grande risultato. Ottimi anche i tortelli di castagne con ricotta da Marco Stabile. E poi finiamo questo viaggio in un luogo famosissimo in tutto il mondo, perché sono andato gradualmente anche per questioni di prezzo. Ora andiamo nel Tempio del Vino, andiamo all'Enoteca Pinchiorri. Bene, l'Enoteca Pinchiorri, per chi non lo sapesse, è il ristorante forse più famoso in Europa per la sua cantina ed è uno dei più grandi al mondo. Io credo che valga la pena per gli appassionati di vino andare a fare un viaggio in questa cantina. Rimarrà estasiato, perché troverà delle serie di bottiglie, a cominciare da quello che considerate il vino più pregiato, lo Château de Chêne, a partire dall'Ottocento. Quindi sicuramente è un luogo dove si va in meditazione, si guardano quelle bottiglie e sicuramente si vorrebbe averne almeno una, aprirne almeno una, però sicuramente il costo non è alla portata di tutti. Devo dire che anche c'è un'ottima cucina, Anne-Marie Feolde, che è la socia di Giorgio Pinchiorri, diciamo parigina, anzi no, francese, non parigina, ma è una signora che da anni ha impostato questa cucina, ora portata avanti da due chef, che ha quel pizzico di francesità, però sposata con una cultura sicuramente fiorentina. E per finire, chi va a Firenze non può non andare a mangiare nei 3 carretti che servono il panino al Lampredotto, che si trovano in varie parti di Firenze, in via dei Macci, nel mercato del Porcellino e in piazza Beccaria. Chi va a Firenze non può non mangiare questo, perché è come portarsi una cartolina, è come sicuramente portarsi qualcosa di Firenze, perché è un qualcosa di storico, di tradizionale, di culturale che questa città offre, e che purtroppo anni fa volevano abolire questi carrettini, ma c'è stata una rivolta e oggi questi carrettini, se uno va, vede che c'è la fila di stranieri che vengono per mangiare il panino al Lampredotto. Il Lampredotto non è una trippa, è l'ultima parte dello stomaco, quindi una cosa leggermente diversa, anche se questi carrettini sono dei trippai. Bisogna difendere con entusiasmo, con energia le nostre tradizioni, mi piace perché tu lo fai sempre. Davide, io non ti faccio gli auguri di Natale, perché noi saremo insieme la mattina di Natale, Radio 24 alle 11, faremo un sabato del villaggio speciale io e te di venerdì, cioè uno speciale Natale, uno speciale pranzo di Natale, quindi ti do appuntamento al giorno di Natale. Bene, creeremo la fame ai nostri radioascoltatori. Straordinario, grazie Davide Paolini, e quindi appuntamento con te a Natale. Noi invece ci ritroviamo tra poco, dopo una breve pausa. Il sabato del villaggio. E sono arrivati ancora titoli di film che vorreste vedere a Natale. È stato il primo argomento di questo sabato del villaggio. Abbiamo guardato un po' tutto quello che ci riserva il palinsesto televisivo durante le feste. Abbiamo parlato in particolare di film, ma torneremo nella seconda ora a parlare di TV, in particolare di bambini e TV, con un amico di Radio 24, ve lo dico già, Federico Taddia, col quale ci collegheremo per capire un po' cosa c'è in televisione per i ragazzi. Tanti titoli che ci avete mandato con grande affetto, sono molto contenta. Sister Act, e poi ci sono anche amici miei personali che mi hanno mandato messaggi sul telefonino. La nostra Anna Migliorati, che dice: ma come, sette spose per sette fratelli, mi è arrivato un piccolo Lord, mi sono arrivati tanti titoli, che vuol dire che forse c'è ancora voglia, lo dicevamo, di cinema in TV, che è così scomparso. Adesso però stiamo per collegarci con Enrico Pagliarini, ma stiamo anche per parlare di musica. Questa, Lean On, è la canzone più ascoltata del 2015, cioè di tutto l'anno, su Spotify, uno dei servizi di streaming musicali più famosi del mondo. La canzone di Major Lazer e DJ Snake, l'avete sicuramente sentita, perché davvero questo è il pezzo più suonato del 2005 su Spotify. Perché ne parliamo? Beh, perché parliamo di servizi, appunto, di musica online, di streaming. Ne parliamo col nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico! Buongiorno, ciao a tutti. Eccolo qua, perché voi dovete sapere che sembra che sia accanto a me in studio, ma io lo dico spesso, siamo collegati grazie alla tecnologia, quindi io non so mai se c'è o non c'è, io lo invoco e lo evoco e lui c'è. Allora Enrico, servizi di streaming online, sembra che ne parliamo da secoli, eppure è sempre una cosa di grande, grandissima attualità. Esatto, stiamo parlando di servizi sostanzialmente ancora molto nuovi. Pensate che Spotify, che tu hai appena citato, ha circa 20 milioni di utenti paganti, una cosa poco più del triplo invece sono gli utenti totali, quindi molti che lo utilizzano gratuitamente, e qui c'è già una prima cosa da dire. Questi servizi hanno sostanzialmente due livelli di accesso: il primo è quello gratuito, che ti permette di fare alcune cose, e poi quello a pagamento, pagando una cifra che ormai il mercato ha posizionato su 10 o dollari o euro al mese, 9,99. Direi che nell'ambito tecnologico, soprattutto su internet, ci sono tantissime cose che costano 10 euro. E poi non sono mai 10, perché sono sempre appunto 9,99. Esatto. E i produttori dicono solo 9,99. Effettivamente non è una cifra incredibile se noi consideriamo mese, un prezzo al mese. Però intanto Enrico, ti dico che sento dei rumorini, sì. Non so se c'è qualche rumore nel microfono o cosa, io te lo dico così, come si diceva un tempo, è il bello della diretta. Però, li sentite ancora? Sì, io ti sento bene, dovunque tu sia. Ah, ok, non so da dove vengano questi rumori, io non sento nessun rumore. No, adesso non ce n'è più. Ah, se magari è un problema di rete, ecco. Su questo noi non... E su questo noi abbiamo fatto molte puntate lamentandoci della qualità della rete. Ma dicevamo, sì. Io ho citato Spotify, non è l'unico, ovviamente. Ho citato Spotify perché è quello che ha reso note le classifiche, banalmente. Sì, certo, cioè, infatti. Allora, devo dire che negli ultimi tempi servizi di questo tipo si sono forse un pochettino ridotti. Cominciamo a vedere un po' di consolidamento nel mercato. Allora, sicuramente Spotify è il più noto, il più famoso. Ci hanno provato e ci stanno provando Apple e Google. Apple con un servizio che si chiama Apple Music. In questo caso non esiste la versione gratuita, ci sono solo 3 mesi di accesso gratuito e puoi utilizzarlo al pieno questo servizio, e poi devi pagare i classici 9,99. Ci ha provato Google, però devo dire che Google ha fatto un sacco di confusione, ha cambiato nome, ha fatto varie offerte, ma non è che mi sia piaciuto tantissimo l'approccio di Google. Comunque esiste anche Google Play Music, stessa cosa, anche in questo caso i soliti 10 euro 9,99. Però direi che sul mercato forse i due player principali e soprattutto player indipendenti sono Spotify e Deezer. Di Deezer vorremmo dire questa settimana, vorremmo raccontare di una notizia che ci dà un po' il là di come stanno cambiando questi servizi, di come si stanno evolvendo, trasformando, espandendo. Allora, Spotify da questa settimana, anche in Italia, perché per il momento lo faceva in altri mercati, ha cominciato a fare in streaming in diretta, che è una cosa non tipica dei servizi di questo genere, perché sono servizi on demand, cioè io ascolto quello che voglio quando voglio io. Ecco, in questo caso hanno cominciato a fare in streaming in diretta, quindi quando accade l'evento, le partite di calcio della Bundesliga tedesca e della Premier League britannica. Per il momento non c'è ancora il calcio italiano e questi servizi sono in lingua originale, quindi non sono in italiano. Immagino quindi che siano servizi per pochi, perché bisogna o sapere l'inglese essere appassionati di calcio inglese o sapere tedesco essere appassionati di calcio tedesco. Però ci dà un po' il là di dove si sta andando. Mi viene da chiederti se lo dico con tutto il conflitto di interessi che possiamo rivestire, è il futuro della radio quello lì? Molto probabilmente sì, se noi pensiamo a queste piattaforme come aggregatori di contenuti, potremmo, vedendo l'evoluzione di questi servizi, vedere un abbozzo del futuro della radio. Va detto che questi servizi al momento non sono ancora in attivo, cioè ecco, perdono soldi. Perché se tu mi dicevi un terzo degli utenti paga, gli altri sono utenti free, con un servizio limitato ma evidentemente per loro sufficiente, sì. E questi servizi online pagano gli artisti, perché in qualche modo la musica legale viene pagata, e quindi la domanda è: si mantengono? No? Allora, al momento no, loro dicono che sul medio-lungo periodo il loro business sarà profittevole, però per il momento Spotify paga una roba come 3 miliardi di euro a tutte le major e tutti gli artisti per i diritti, perché ogni volta che noi clicchiamo su una canzone e la ascoltiamo, una piccola cifra, poi c'è chi ha polemizzato che la cifra è troppo bassa, però secondo me è un bel business per gli artisti, anche per farsi conoscere, soprattutto quelli meno noti, meno famosi. Per il momento però il business non torna. Certo è che molti business online hanno dei ritorni nel medio-lungo periodo. Pensiamo ad esempio all'e-commerce, ci sono siti di e-commerce che hanno dei ritorni che vanno ben oltre i 5-7 anni, però dipende insomma dalla fiducia che gli investitori hanno nel futuro di questi servizi. Tuttavia oggi ci sono come dicevo prima, abbiamo visto già un po' di consolidamento. Ad esempio c'è un servizio che soprattutto negli Stati Uniti era abbastanza noto, che era RDO, che ha chiuso proprio in questi giorni, ha annunciato la chiusura perché non ha resistito sul mercato. Poi noi parlavamo anche di Tidal un tempo, che voleva fare della musica di qualità sonora maggiore, però è veramente anche qui difficile riuscire a mantenere servizi. Sì. Tidal non ha ancora chiuso, però secondo me sono vicini. Ti faccio una domanda, Enrico. Uno dei problemi, ad esempio, io li uso così, ma soprattutto li uso da casa perché ho il wifi. Se invece sono in giro, certo, sono comodi, soprattutto se qualcuno ha una macchina con un autoradio che si colleghi magari in Bluetooth col telefonino. Certo è che però occupano banda. Esattamente, questo è uno dei problemi. Forse va citato il caso di Team Music, che è l'unico tra i player, almeno in Italia, tra i grossi player, che essendo prodotto dall'operatore di telefonia mobile non consuma banda. Si potrebbe aprire un capitolo sulla neutralità della rete, perché in questo caso Telecom usa un vantaggio competitivo, cioè essere proprietaria della rete per offrire un servizio senza farti consumare banda, che è uno dei problemi di questi servizi in mobilità. Devo anche dire che l'audio non ha il video e quindi non consuma tanta banda come il video. Se uno paga, i servizi a pagamento permettono di poter utilizzare la musica offline, quindi quando uno è in situazione di wifi si carica magari una playlist di canzoni preferite e poi la può usare in mobilità, in movimento offline, quindi senza connettersi e quindi senza consumare banda. Però certamente questo è uno dei problemi. Nel tempo le offerte di internet in mobilità si amplieranno con sempre più giga, però scordiamoci di vedere, almeno direi nei prossimi 5-10 anni, offerte flat senza limiti, perché comunque la rete di telefonia mobile offre bande condivise, quindi è impossibile sfruttarla così come la sfruttiamo in casa o quando siamo connessi ad una rete fissa. Però certo, questo è un problema, ma insomma direi che in qualche modo si può anche superare. Volevo aggiungere una cosa su Deezer, perché oggi questa sera ci sarà in diretta, anche qui un altro prodotto in diretta che è abbastanza particolare per questo tipo di servizi, e tra l'altro tecnicamente non è neanche la cosa migliore da fare. Quando ci sono degli eventi in diretta sarebbe meglio utilizzare, tecnicamente parlando, il broadcast, cioè un'antenna che spara un segnale a tutti, e qui invece si consuma un sacco di banda in giro per tutta Italia, in tutta Europa. Comunque, questi sono problemi di chi produce queste tecnologie. Questa sera ci sarà in diretta il concerto di David Guetta da Parigi. Ecco perché ieri mi chiedevi chi era David Guetta. No, spieghiamo, che sembro un ignorante. No, allora, David Guetta, detto così, lo conosco, è che mi hanno detto David Guetta e non, alla francese, e io mi dicevo, ma chi era sto Guetta? Non capivo quello. Deezer è francese, sì. Deezer è francese. Ecco. E qui una nota simpatica, che sia Spotify che Deezer, Spotify è svedese, allora, sia Spotify che Deezer sono stranamente due servizi di successo, perché possiamo dire che sono attualmente servizi di successo, almeno sono popolari, poi abbiamo detto che ancora perdono soldi, però vedremo nei prossimi anni, e non sono americani, che molto spesso su internet invece i grandi servizi in streaming, o comunque i grandi servizi in generale su internet, sono americani. E devo anche dire che Apple, che forse è l'unico tra i grossi player che sta tentando questa strada in modo abbastanza forte, arriverà, se tutto va bene, se è confermato, ai livelli di Spotify, quindi non sta facendo un successo incredibile, anche perché non ha la versione gratuita. Si dice che probabilmente arriverà a 20 milioni di utenti alla fine di quest'anno, e Spotify più o meno ha questi utenti paganti, che quindi pagano ogni mese questa cifra. A proposito di utenti paganti, so che in questo periodo ci sono un po' di offerte per invogliare, sì, a passare al servizio premium di questi servizi. Sì, allora tutti i servizi, ricordiamo che hanno normalmente un mese gratuito, quindi uno può provare questa offerta, e molti di questi servizi come Spotify, Deezer hanno anche una base gratuita per sempre, quindi uno può utilizzarlo, magari provarlo e poi passare all'offerta cosiddetta premium. Sì, per tre mesi adesso Spotify sta facendo un'offerta a 0,99 al mese, che quindi praticamente pochissimo, molto poco. Che cosa offre la versione premium? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma perché dovrei pagare se c'è già la versione gratuita? Allora, una migliore qualità, che effettivamente non è da scartare. Non c'è la pubblicità, perché nella parte gratuita di questi servizi c'è la pubblicità, non è molto invasiva, non devo dire che non disturba troppo, però c'è pubblicità. Quindi pensate, che ne so, uno ha fatto una playlist di musica tranquilla per una cena la sera, e ad un certo punto arriva una pubblicità, che ne so, di un'automobile che disturba la serata. Quindi senza pubblicità. No, che poi fai con i tuoi invitati la figura di quello che non paga. Che non paga, cioè, certo. Dai. Sì, esattamente. Poi si possono ascoltare canzoni offline, quindi come dicevamo prima, salvarsi nella versione a pagamento, esatto. E poi, soprattutto su smartphone, questi servizi, Spotify e Deezer sicuramente, non offrono La scelta che offrono sul computer. Cioè sul computer puoi fare un po' di tutto, puoi ascoltare, fare skip, cioè passare alla canzone successiva, sì, in tranquillità. Ecco, su mobile questa cosa la puoi fare solo nella versione a pagamento, perché naturalmente vogliono... Cioè col telefonino tu puoi scegliere l'artista, ma non puoi scegliere la canzone, va a caso, sì, per puoi dire. Puoi scegliere magari due o tre, però dopo ti chiede, ti dice, vai, se paghi ti faccio scegliere quello che vuoi, quando vuoi, se no... Se no scelgo io un po' a caso. Allora Enrico, io sento ancora i rumorini, però noi facciamo una brevissima pausa perché abbiamo il traffico e poi torniamo insieme tra poco. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme, Enrico. Abbiamo parlato appunto di questi servizi di streaming musicale online. Non so se c'è qualcosa da aggiungere o se passiamo all'app della settimana, Enrico. Passiamo all'app della settimana. No, direi che non c'è nulla da aggiungere, nel senso che potremmo parlare ancora per mezz'ora, ma no, sostanzialmente certo, sono molto... Sì. L'invito è, visto che esiste la versione gratuita, li provate e poi decidete se ve ne piace più uno o più l'altro. Certo. Perché sostanzialmente offrono tutti le stesse cose, non è che ci siano delle differenze incredibili. Sì, c'è qualcuno che magari ha un artista e l'altro non ce l'ha, ma insomma il catalogo musicale è molto molto molto ampio. Però tanto quindi le Taylor prova. Swift che non vogliono mettere la musica in streaming non ce la mettono in generale, sì, sì. Ecco. Però chi se ne frega, no? Poi uno Taylor Swift l'ascolta alla radio, normale, no? Giusto. No? Anche perché già mi hai preoccupato sul futuro della radio, Enrico, no? Adesso rimaniamo ancora con la radio tradizionale. Però nel futuro non c'è certezza, quindi stiamo tranquilli. Tradizionalmente, come diceva, allora, quasi come diceva il poeta. App della settimana. Sì. App della settimana si chiama Life Cake, la torta della vita. Intanto sai che mentre tu mi dici l'app della settimana io cominciavo già a cercarla. Allora, cerchiamo Life Cake. Life Cake esiste, diciamo subito che esiste, per Android e per iOS, quindi App Store e Google Play. Molto semplice, è un'app, ho sentito che parlerete di bambini, di sì. Prodotti per bambini, anche in questo caso è un'app per mettere in ordine le fotografie dei bambini. No, io leggo subito la Baby Timeline. No. Sì. Sì, c'è una timeline che quindi, che ne so, tu vuoi vedere quando il bambino aveva un anno oppure quando aveva 5 anni. Questa app sostanzialmente mette ordine nelle fotografie che i genitori fanno dei bambini, ma soprattutto trattandosi di bambini si preoccupa molto. Questa app è un'app di Canon, che è stata proprio qui, quindi Canon si occupa, certo, di fotografie, quindi è un'app che si occupa di foto. Ecco, tengono molto in modo molto forte a precisare che hanno un elevatissimo a livello di privacy, una forte attenzione alla privacy, quindi abbiamo sempre i soliti timori che le cose che vanno nel cloud, che vanno su internet, e ci sono effettivamente delle applicazioni che di fatto vanno a controllare quello che noi facciamo con le nostre fotografie, anche per mettere ordine. Alcuni servizi cloud devono andare a scandagliare i nostri visi, le nostre facce. Poi non sappiamo che cosa se ne facciano poi di queste fotografie. Ecco, in questo caso sicuramente è una, devo dire che Canon è un'azienda giapponese molto seria, quindi da questo punto di vista stiamo tranquilli, e potrebbe essere una idea, una è gratuita, quindi poi ci sono alcuni servizi aggiuntivi, alcune cose che si possono comprare all'interno dell'app, però la versione base è gratuita anche in questo caso, quindi uno dice la provo, mi piace, la uso, non mi piace, certo, la disinstallo. Certo, no? È il vecchio album, quelli che avevamo noi, però un po' più avanzato, il nuovo tipo di album di fotografie per i bimbi. Sì. Life Cake, grazie Enrico. Noi Ciao. Ci ritroviamo col sabato del villaggio ormai nell'anno nuovo, quindi ti faccio formalmente buone feste in diretta, ma tanto noi ci rivediamo in redazione. Ah, sì, ci vediamo presto, ciao. A presto Enrico Pagliarini. I rumorini li senti ancora? Ogni tanto lo sento ancora. Ma problemi di rete, si vede cerchiamo che c'è di capire cosa sono 4G. I rumorini, perché adesso noi dobbiamo parlare di cinema. Parleremo mica di Star Wars col nostro Franco D'Assisti, no? Oh, ma no, figurati, no? È stato, ciao, no, è capitato lì così. Ciao Marta, ciao. È uscito. Ma perché che... si parla d'altro da 5 giorni a questa parte? Altro che 5 giorni, ormai ne parliamo da settimane. È uscito, basta. Chi l'ha visto, l'ha visto. Chi non l'ha ancora visto, ha sicuramente già prenotato il biglietto. Chi non avesse ancora prenotato il biglietto, la domanda, come diceva il poeta, sorge spontanea. Ma sì, ma vada a prenotare il biglietto, ecco, dai. Sì. perché poi è come dire, cioè è un evento al quale non si può sfuggire, certo. Cioè, indipendentemente dalla valutazione che si dà del film, che poi è molto variegata, devo dire, lo vedremo anche alla Rosa Purpurea fra poco, alle 18, molto variegata anche all'interno delle categorie di fans, certo. Quelli di 50 anni e quelli di 20 anni. Certo, certo. Io ci sono andato, faccio questo piccolo esempio personale, sono andato con mia figlia di 14 anni, di 15 anni, che l'ha visto così, proprio con gli occhioni attaccati, e con quella di 5 anni che l'ha visto anche lei con gli occhioni attaccati. Cioè è un film che va dai 5 ai 20, secondo me è proprio di lusso, perché la prima volta che vedono Star Wars al cinema ne hanno sentito parlare dai genitori, hanno sentito parlare di questo mito e finalmente lo incontrano. Per chi ha i nostri anni, diciamo così, bisogna spogliarsi da tutto, da tutta la filosofia, certo. Da tutto il ruvido che c'era dentro la saga originale, mettersi lì e vedere un buon prodotto cinematografico che funziona, che è scritto divinamente, che è molto semplice, molto lineare, che è quasi, non dico un remake, ma gli americani dicono un reboot, no? Del primo Guerre Stellari, molti elementi sono simili, e secondo me vai via comunque con l'aria soddisfatta dal cinema. Franco, ne parleremo tantissimo a Rosa Purpurea dopo il giornale radio del 18, quindi la domanda è: se qualcuno riuscisse a trovare qualche altro film al cinema perché le sale sono tutte occupate, cosa andare a vedere questa settimana? Beh, è una settimana forse in termini di densità, di qualità cinematografica, forse la più bella dell'anno, sì. Perché non escono tanti film, ne escono 6, siamo ormai di fronte a Natale, molti sono già usciti, ma soprattutto escono, mettiamoci Lucas come grande padre di Star Wars, è vero. Poi mettiamoci Woody Allen con Irrational Man, sì. E mettiamoci Steven Spielberg con Il Ponte delle Spie, una certa è trilogia. Un triplete mica da ridere, no? Sì. Allora sì, Irrational Man, Woody Allen, che è il Woody Allen che va dalle parti di Match Point, di Crimini e Misfatti, quel Woody Allen noir quasi, che riflette sui temi della morte, ma soprattutto del delitto e del castigo, che sono un po' diventati negli ultimi anni temi ricorrenti della sua cinematografia. Un film scritto molto bene, interpretato molto bene da Joaquin Phoenix nei panni di questo professore universitario che miete cuori come una trebbiatrice praticamente, perché è un po', sai, un po' viveur così, un po' Joaquin Phoenix, con l'occhio, diciamo, un po' sfatto eccetera, quindi grande grande attrattiva, ma lui è uno che soprattutto è impallinato con la filosofia e con l'idea di tramutarla in realtà, e quindi dice: se queste sono dottrine filosofiche, facciamole diventare vere a partire dall'omicidio. E quindi questo chiaramente destabilizza un po'. E l'altro è appunto invece Spielberg, Il Ponte delle Spie. Si può leggere come una grande storia di spionaggio, perché è una storia vera, quella di questo avvocato Donovan, avvocato americano che si occupava di assicurazioni e fu catapultato dentro la Guerra Fredda a difendere una spia sovietica che era stata arrestata in America, ma gli americani volevano far vedere che loro li difendevano bene, perché lì c'è la democrazia, c'è la Costituzione, ci sono le regole. Un bel film che puoi vedere come spy story, ma puoi anche vedere come proseguimento di un ragionamento che Spielberg sta facendo anche con Lincoln, per esempio, sulla democrazia americana, le sue radici e la sua attualità. Insomma, nelle pieghe della programmazione c'è persino un Sokurov, c'è anche un Francofonia. Sì, Sokurov con Francofonia, non so quanto sia stato azzeccato a farlo uscire adesso, è un film molto sperimentale, però importante, sul senso dell'importanza dell'arte nell'Occidente. Anche questo parla all'Occidente di oggi, ti dice quanto i musei, e qui è il Louvre, il museo protagonista, siano l'anima, forse il DNA stesso della nostra civiltà. E poi, per far Natale, in attesa del grande Checco Zalone. Dopo tutta questa qualità. Esatto. Beh, no, però, allora... È sempre bello ridere a Natale. Ma assolutamente. Ce ne sono due panettoni, un panettone e un pandoro. Un panettone, un pandoro, Natale col boss e Vacanza ai Caraibi. Assolutamente. Beh, il cine panettone è Vacanza, ecco, ai Caraibi, perché anche qui De Sica, Ghini, eccetera, eccetera, Argentero, è tutti ai Caraibi, posto bellissimo, rumori corporei e fisiologici a iosa. Cine battuta, cioè cine panettone. Quell'altro è stato definito anche un cine cotechino, nel senso che è voglio indagare oltre. È un film invece con la trama Natale col boss, una storia insomma abbastanza surreale di questo boss che si deve rifare la faccia perché è stato riconosciuto da due investigatori sciocchi, diciamo così, no? Però lì c'è con Ruffini, Mandelli, eccetera, eccetera, c'è un po' più, anche Peppino Di Capri, che è una rivelazione assoluta, c'è un po' più il tentativo di fare un film a trama che potrebbe stare in piedi anche fra 6 mesi, diciamo, no? Quindi se siete un po' più così vogliosi di vedere un film a sé stante, vedete Natale col boss. Se vi piace l'appuntamento col cinepanettone, voglio dire, Vacanze ai Caraibi, il vostro film. E correte, perché tra 10 giorni arriva Checco Zalone e non è lì, li fa fuori tutti, anche giorni. Guerre Stellari, secondo me, a un secondo certo me, punto. Secondo me, fa fuori tutti. Franco, allora l'appuntamento dopo le 18 per parlare di Guerre Stellari e tutto il resto con la Rosa Purpurea. E beh, auguri, buone feste. E beh, buone feste, buon Natale. Noi ci risentiremo qui con i nostri collegamenti, passata la buriana delle feste natalizie di fine anno, il 9 gennaio, anzi saremo qui, diamo già appuntamento, segnatevelo. Non ci siamo, ciao. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme, 16:06 minuti 36 secondi a Radio 24, la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, e poi la terza ora sarà quella sempre in diretta di RadioTube. Il numero per i vostri SMS: 349-238-6666, 349-238-6666 anche per i vostri WhatsApp. Per chi invece utilizza Twitter, il mio account è @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV, come le iniziali del sabato del villaggio, sennò diventa troppo lungo e sprechiamo tutti i caratteri del tweet solo per il titolo della trasmissione. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Allora, ancora TV, questa volta per ragazzi. Cosa guardare insieme a loro? È importante fare le cose per bene, e lo chiediamo a un amico di Radio 24 che sarà con noi, Federico Taddia. I libri del 2015, magari da recuperare durante le vacanze di Natale, con tutti i consigli di Alessandra Tedesco. Consumi e tendenze con Maria Luisa Pezzali, le dritte per gli ultimi acquisti online. Chissà se siamo ancora in tempo, beh, insomma, lo chiederemo a lei. E poi consigli anticrisi per la spesa alimentare delle feste. Ma prima, una serie in anteprima. Le regole per diventare un buon poliziotto sono: presentarsi sempre in maniera adeguata. Vedo che ha fatto la conoscenza del capitano sceriffo. Imparare dai maestri. Colombo, stagione 4, episodio 1. Avere un ottimo rapporto con i compagni di squadra. Da come è iniziata, non è stasera che dormiremo insieme. Né stasera, né quest'anno, e non in questa vita. Ma soprattutto, capire quando è il momento di fare uno strappo alla regola. Questa sì che è classica. In prima assoluta, Sheriff. Lunedì 4 gennaio alle 21, su Giallo, canale 38. È una serie che arriva presto, lo avete sentito, su Giallo da lunedì 4 gennaio, e ve la voglio consigliare personalmente perché ho visto i primi episodi, li ho visti a Courmayeur al Noir in Festival, mi sono appassionata io per prima, quindi comincio a darvi questo consiglio. 4 gennaio, manca qualche giorno, in realtà poi c'è un'anteprima dei primi due episodi domenica sera alle 21, domenica 27 dicembre. Mi sono molto appassionata, quindi ve ne parlo subito, ve ne parlo per prima. È un poliziesco francese ambientato a Lione, con un protagonista speciale che si chiama Kader Sherif, interpretato dall'attore di origine marocchina Abdelhafid Metalsi. Kader Sherif è un poliziotto molto molto particolare. Credo che una delle caratteristiche di questo personaggio sia che lui vive nella realtà del suo lavoro, ma crede di essere in una serie televisiva. Sogna di essere l'eroe del suo telefilm, perché ha sempre desiderato di essere un poliziotto. È appassionato del suo lavoro, è un uomo equilibrato che ha sempre sognato di essere dov'è. E il ha toujours rêvé d'être là où il est, donc lui chaque jour que la vie lui offre, il est heureux de se lever. Ogni giorno che la vita gli offre è felice di alzarsi e di attraversare la strada per andare al lavoro, perché ha voluto vivere di fronte al commissariato per essere continuamente dentro al suo sogno. E ça l'amuse énormément. Lui per primo adora citare le serie televisive che hanno cullato la sua infanzia e l'hanno aiutato a costruire quello che è. Dans une certaine mesure à se construire. Voilà. Ve l'ho detto, mio consiglio personale, Sheriff, l'ispettore Sheriff ha una nuova affascinante partner, la detective Adeline Briard. Chissà se tra i due nasce qualcosa, perché sono sempre le cose, il pepe che ci piace un po' nelle serie TV. Ha una figlia adolescente, Sara. L'ispettore Sheriff è di religione musulmana. La mamma di Sara è ebrea. Ci sono tanti punti di contatto con la realtà, anche se, dice l'ideatore della serie, Lionel Olanga, così nascono le storie di Sheriff. Le truc, c'est que justement, on est parti du principe d'essayer de ne pas coller à l'actualité. Il trucco è stato partire dal principio di non essere perfettamente aderenti all'attualità. Se ci fossimo detti all'inizio della scrittura, nel 2012, cerchiamo i temi più attuali, adesso saremmo sorpassati. È successo qualcosa di molto particolare durante la messa in onda in Francia della stagione 2. C'était en janvier dernier, c'était au moment des attentats de Charlie Hebdo. Era nel gennaio scorso, il giorno degli attentati di Charlie Hebdo. Sui social network si diffondeva l'espressione «Je suis Charlie». Era una giornata lunghissima e drammatica che non finiva mai. Non sapevamo se la puntata sarebbe stata trasmessa o no, e poi l'hanno mandata in onda con un'ora di ritardo. Il caso ha voluto che in quell'episodio ci fosse questa scena. Sheriff sortait de chez lui, retrouvait Sarah avec des amis à elle. Sheriff usciva di casa e incontrava sua figlia Sara con le sue amiche, che lo salutavano allegramente. Buongiorno, signor Sheriff. E lui, citando la vecchia serie Charlie's Angels, rispondeva: chiamatemi Charlie. Bonjour, monsieur Sheriff. Lui répond: mais je vous en prie, vous pouvez m'appeler Charlie. Io non mi ricordavo nemmeno quella frase, ma i telespettatori hanno cominciato a twittare e in tanti ci hanno detto: ci ha fatto bene. Ça nous a fait du bien. C'est-à-dire que le fait justement d'être dans cette série, qui est une série. Il fatto che questa serie sia leggera e divertente e con un protagonista sorridente, ma con quelle origini arabe, ha fatto sì che la gente ci abbia scritto grazie, perché ci ha fatto bene. E les gens nous ont envoyé des messages en disant merci, parce que ça nous a vraiment fait du bien. Tra le cose divertenti di Sheriff, il fatto che il protagonista sia un grande, grandissimo appassionato di vecchie serie TV. Le serie d'aujourd'hui sont plus sombres, sont plus dures. Le serie di oggi sono più buie, sono più dure. Que ce soit Amicalement Vôtre, que ce soit Starsky et Hutch, Le Saint, tous ces personnages-là étaient des personnages qui avaient. Ma le serie che c'erano quando eravamo bambini, Attenti a quei due, Starsky et Hutch, Il Santo, avevano dei protagonisti come Tony Curtis, Roger Moore, Robert Wagner. Avevano uno sguardo malandrino, seducente, con un grande humor. Quand il a été question du casting, moi je savais que j'avais une seule idée. Quando ho cercato l'attore protagonista volevo quello sguardo, e quando ho visto Abdé Hafid ho detto: eccolo là, ha quello sguardo. E quando j'ai vu les essais d'Abdé Hafid à la seconde, on s'est dit mais moi je le vois à l'œil, il est là à l'œil. Voilà. E questo era un mio consiglio personale, vi dicevo, dal 4 gennaio su Giallo TV, che è il canale 38 del digitale terrestre. Io per prima mi sono appassionata, quindi perché non consigliarvelo personalmente? Ma ci sono tanti altri esordi a gennaio. Io mi sono fatta un piccolissimo elenco per tutti gli appassionati di serie TV. 2 gennaio torna Pretty Little Liars, sesta stagione su Premium Stories. Il 4 gennaio sempre Scandal, quinta stagione su Fox Life. 6 gennaio Hannibal, terza stagione su Premium Crime. 7 gennaio Undercover, quarta stagione su Premium Action. 8 gennaio The Blacklist, terza stagione su Fox Crime. Si va ancora avanti, 13 gennaio Shadowhunters inizia su Netflix. 15 gennaio Shannara inizia su Sky Atlantic. Poi, grandissimo successo, finalmente anche gli italiani si stanno rendendo conto di questa stagione, di questa serie che in America sta andando all'ultima stagione, in Italia è cresciuta poco a poco. The Big Bang Theory, nona stagione, il martedì su Joy torna dal 19 gennaio su Fox. Dal 20 gennaio invece Le Regole del Delitto Perfetto, abbiamo già parlato di Gotham, seconda stagione su Premium Action dal 25 gennaio, e poi dal 26 gennaio pare proprio che su Fox arrivi X-Files, serie evento, ne parleremo abbondantemente. Questi sono tutti gli appuntamenti di gennaio per gli appassionati di serie TV. Tra poco però dobbiamo aprire un'altra pagina del nostro Sabato del Villaggio, dobbiamo rimanere insieme col Sabato del Villaggio, insieme fino alle 17, poi ci sarà la terza ora, quella con RadioTube. Adesso invece sono le 16:15 minuti, è il momento degli aggiornamenti del traffico. Il Sabato del Villaggio. Nel nostro Sabato del Villaggio è il momento di aprire la pagina, e ovviamente la pagina dei libri. con questa si entra subito in tema di Capodanno, di bilanci di fine anno, e li facciamo anche coi libri. Buongiorno Alessandra Tedesco. Buongiorno Marta, come siamo buone oggi. Sì, anche se mi viene sempre da ridere, perché sai che questa canzone, questo gospel, non c'entra niente con Capodanno. Ah veramente? Io no, sempre... anzi, è un gospel che in teoria verrebbe utilizzato a Pasqua, però siccome noi negli anni 80 avevamo una pubblicità di spumante. Fantastico, quindi siamo vittime della pubblicità. Sì sì, noi lo usiamo ancora a Capodanno e fa subito Capodanno, ma non c'entra nulla. Però che bella, è una nostra tradizione. Veramente, è un aneddoto che tiro sempre fuori. Alessandra, tempo di bilanci anche appunto sui libri, quindi chi ha comprato i regali li ha comprati, chi non li ha ancora comprati magari fa gli ultimi salti in libreria, ma al di là dei regali io direi che andiamo a vedere com'è andata quest'anno e quali sono stati gli imperdibili e chi li ha persi al tempo di recuperarli durante le vacanze. Naturalmente, diciamo che io ho fatto un mix fra la classifica di vendite che ha diffuso Amazon, fra i libri cartacei e gli ebook, le classifiche che invece commissionano direttamente i giornali, gli inserti culturali eccetera, e poi, come dire, una mia sensazione, un polso, un fiuto, avendo seguito le classifiche un po' tutto l'anno. Allora, inevitabilmente, come sempre in questo periodo, l'abbiamo già detto una volta, lo dobbiamo ripetere: il re delle classifiche di fine anno, e credo sarà di tutto il 2015, Fabio Volo con il romanzo E tutta vita, pubblicato da Mondadori. Allora Alessandra, siccome io già tempo fa avevo fatto il mio coming out dicendo che io avevo letto tutti i libri di Fabio Volo e che a me hanno sempre divertito, una lettura lieve, ma mi sono sempre divertita a leggere i libri di Fabio Volo, che viene spesso criticato proprio a prescindere. Sì. Tu invece dicevi, ma io Fabio Volo... Sì, io facevo parte di quella schiera, lo ammetto, faccio coming out, l'ho fatto anche con lui quando l'ho intervistato, ho detto facevo parte di quella schiera di persone che non leggevano Fabio Volo, avendo tante cose da leggere, perché avevo letto Esco a fare due passi, il suo primo romanzo, e mi aveva annoiato profondamente. Invece devo dire che ho letto questo E tutta vita, e sai che mi è piaciuto? No, vedi, io non l'ho ancora letto, vuol dire guarda, che... Chiaramente non stiamo parlando di letteratura, stiamo parlando di narrativa, di intrattenimento. Però la storia è scritta bene, in modo semplice, molto vera. Secondo me le persone si riconoscono, gli uomini si riconoscono nel personaggio maschile e le donne capiscono come pensano gli uomini, perché la storia è di una coppia, Nicola e Sofia, si conoscono da giovani, innamoramento folle, poi sai quei giorni che passi sempre insieme, un anno di amore, di sesso, di passione, di follia, poi nasce un bambino, e nel momento in cui nasce un bambino gli equilibri della coppia saltano. E ci ho ritrovato, devo dire, molte storie vere, e tutto è raccontato chiaramente dal punto di vista maschile, quindi le donne dovrebbero leggerlo per capire gli uomini, gli uomini per consolarsi. A me ci vorrebbe un'enciclopedia, non mi basta il libro di Fabio Volo, però devo dire che durante le vacanze di Natale, quando arriveranno, io sì, me lo leggerò. Fare, sì, ma poi sono sempre dell'idea che mica dobbiamo al cinema, mica andiamo solo a vedere Socuro, andiamo a vedere anche le commedie divertenti, quindi io tifo sempre per Fabio Volo. Va bene, dai. Ancora consigli, ancora libri che hanno segnato questo 2015? Guarda, in genere c'è sempre il libro dell'estate che è un giallo. Quest'anno c'è stata una lotta fra, come dire, un rosso e un giallo, ossia fra l'erotismo di Grey, che era la versione lo so, le 50 sfumature, l'ho lo letto, sai che io Alessandra. Lo detesto, no, l'ho letto Grey, l'ho letto, non mi è piaciuto, io ho iniziato a leggerlo, basta, mi sono dovuta fermare, no, mi dispiace. Ve lo dico proprio con affetto alle fan della trilogia, sì, ormai tetralogia, no, non mi è piaciuto Grey, niente. Neanche a me. Però E.L. James, insomma, autrice di questa versione, cioè ha raccontato la stessa storia delle 50 sfumature di grigio, di nero, di rosso, però dalla parte, dal punto di vista maschile, come Grey, Fabio Volo dal punto di vista, maschile. E questo era il rosso dell'estate, che ha combattuto a livello di vendite con il giallo dell'estate, perché deve sempre esserci un giallo in estate, ed è stato La ragazza del treno, dell'inglese, anche qui c'è stata, come dire, una lotta tutta british, di Paula Hawkins, pubblicato in Italia da PM. Un romanzo, devo dire, che è piaciuto molto anche a persone non sospette, cioè quelli che non amano i romanzi di genere. Anche in questo caso non parliamo di alta letteratura, ma parliamo di intrattenimento. È una trama che ti prende, perché c'è questa ragazza che ogni giorno prende il treno, questa donna, dalla periferia di Londra alla città per andare a lavorare. Questo treno si ferma sempre allo stesso stop, lei guarda questa coppia, un uomo e una donna, nella veranda che fanno colazione, e si immagina la loro vita, pensa che sia meravigliosa, che si amino alla follia, finché succede qualcosa che, a questo punto io mi fermo sempre quando racconto appunto La ragazza del treno, perché sennò vi svelo quello come che dicono succede. Gli appassionati di serie televisive, spoiler. Anticipazione, don't spoiler. Quindi questi due libri dell'estate, narrativa, sì. narrativa. Casi letterari invece non narrativa? Guarda, nel 2015 ci sono stati due casi letterari della cosiddetta varia. Cioè, ah, mi piacciono questi queste definizioni. Sì, da addetti ai lavori, mi piace, la userò anch'io per far finta che ne so, sì, di varia. Quando non è né carne né pesce, cioè quando non è un saggio e quando non è un romanzo, quindi narrativa, è varia. Varia, possono varia, essere i manuali, anche le ricette, insomma tutto quanto è varia. E ci sono stati due casi, Il magico potere del riordino di Marie Kondo, pubblicato da Vallardi, oltre 250.000 copie in Italia, ti assicuro che per un libro di varia è veramente un risultato strepitoso. Questo libro che appunto racconta come bisogna riordinare la casa oltre che la vita, mi ricordo il periodo della follia sui social network, tutti che fotografavano i propri cassetti, i propri armadi. Anche noi e te abbiamo fatto la sfida, ti ricordi? Abbiamo fotografato le nostre scrivanie, perché Marta Cagnola è un'ordinata. Sì, io sono ordinata patologica. Ecco, volevo usare un termine, brava, patologica, sì, io una disordinata creativa. È vero. Sì, io sono un'ordinata, l'ordine che non ho nella vita lo metto sulla scrivania. Beh, io ho letto Marie Kondo, ho provato ad applicare alcuni criteri sono validissimi, per esempio come mettere in ordine i collan e come mettere in ordine per categorie, altri tipo buttare i libri. No, guarda, Marie Kondo lì non ci siamo proprio. E l'altro caso di varia è stato L'intestino felice di Sonzogno, scritto da una ragazza tedesca, Giulia Enders, che anche in Italia insomma ha avuto grande successo, più di 100.000 copie, in Germania 1.500.000, che ti racconta in maniera scientifica, però divertente, anche insomma facile, come funziona l'intestino e come tutta la salute nostra, anche psicologica, non solo fisica, dipenda da quei simpatici amichetti batteri che stanno nell'intestino. È stata una lettura veramente molto interessante. Assai curiosa. A me è piaciuta assolutamente. Altri libri da recuperare durante le vacanze di Natale, perché sono gli imperdibili del 2015? Guarda, c'è stato un altro caso in Italia, che è stato Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, pubblicato da Adelphi. Ora è uscito l'audiolibro, da lui stesso letto, di Emmons, perché è un piccolo libricino che parla di, appunto, di fisica, di Einstein, delle varie teorie, però lo fa in modo così semplice e così divulgativo che è un libro che veramente inaspettatamente è andato a ruba. Invece, in maniera prevedibile, è andato a ruba Il Montalbano di Camilleri, come tutti gli anni. Quest'anno era La giostra degli scambi, pubblicato come sempre da Sellerio. In questo caso Montalbano aveva a che fare con una serie di rapimenti, delle ragazze che scomparivano, poi venivano rilasciate, insomma, e Montalbano ovviamente, come sempre, risolve il caso. Ma il libro di Alessandra Tedesco? Cioè, c'è una cosa che tu vuoi consigliare proprio di cuore? Io ne sto consigliando tanti, chiaramente, di libri in questo periodo, però ho pensato a un libro particolare che io ho letto quest'estate e mi ha colpito. Non è un libro letterario, è una storia, la storia vera, ed è quella che ti coinvolge. Il libro si intitola Dono, lettera alla sconosciuta che ha salvato mio figlio, scritto da Emanuela Imprescia, pubblicato da Feltrinelli. Ci sono tanti libri, lo sappiamo, anche un po' lacrimevoli su queste storie di bambini malati, eccetera. Però vi posso dire che questa, poi avendo conosciuto personalmente l'autrice, è una storia coinvolgente, semplice, raccontata in molto semplice, in modo vero. Questo bambino che si ammala di leucemia e che riceve un grandissimo dono, cioè quello della donazione del midollo osseo, cosa che la mamma ha fatto a sua volta per una perfetta sconosciuta. E io ho imparato da questo libro che donare il midollo osseo non è una cosa così folle. Uno pensa, oh, posso rimanere paralizzato di qua. No, in realtà non vanno a toccare quelle cose lì, si fa un prelievo dall'anca o addirittura dal sangue in maniera molto più semplice. E io, sai, dopo aver letto questo libro ci ho pensato tanto, avevo deciso di fare questo passo e poi Emanuela purtroppo mi ha gelato, perché mi ha detto che in Italia alla mia età, cioè a 45 anni, non si può più fare la tipizzazione per la donazione del midollo osseo. No, vabbè, allora l'importante è informarsi, leggere, capire, sì, perché poi magari qualcuno si possa convincere. Perché è una storia bella, è una storia di essere dono. In più. Meglio. E visto che il Natale è un periodo di dono, più del dono della vita, secondo me non c'è niente. Prima di farti gli auguri di buone feste, Alessandra, gli appuntamenti col cacciatore di libri? Oh mamma mia, me li sono dimenticati. No, come sempre, tutti i sabati alle 6:30 per i mattinieri. Svegliatemi presto in questo periodo che c'è un sacco di cose da fare. Alle 22 invece per tutti gli altri. E poi ci sarà una puntata speciale il giorno di Natale alle 18. Che meraviglia! Allora buone feste, Alessandra. Buone feste a tutti con tanti libri. Il sabato del villaggio. Vi ricordate che solo la scorsa settimana parlavamo con Giosada, che aveva vinto X Factor, l'abbiamo festeggiato moltissimo, tutti i grandi fan di Giosada. Vedevo adesso nelle agenzie di stampa che Giosada suonerà a Capodanno a Bari. Beh, insomma, per tutti i baresi, per tutti i fan di Giosada, una bella notizia. Noi abbiamo fatto, io ho fatto molto il tifo per lui, soprattutto per questa sua canzone in italiano che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata del Sabato del Villaggio. Ne approfitto per ricordarvi che ci sono tutti i nostri podcast all'indirizzo radio24.it. Abbiamo parlato di serie TV in questo Sabato del Villaggio, abbiamo fatto un po' di calendario con tutte le serie che arriveranno all'inizio del 2016, vi ho consigliato quella di cui sono appassionata, che sta per arrivare in Italia. Abbiamo parlato di libri, nella prima ora avevamo parlato dei film che arriveranno in televisione per queste feste natalizie. Tra l'altro sono arrivati davvero tanti messaggi, anche se qualcuno dice che sono solo i grandi a guardare i film a Natale. In particolare è arrivato un messaggio di Gianni da Milano che dice: i più giovani guardano altro. Però lui stesso scrive: io mi rivedrò Una poltrona per due, che abbiamo visto andrà in onda la sera della vigilia su Italia 1, ed educherò i miei figli ai film di Natale. Perché anche se i giovani sono abituati a vedere altro, magari durante le vacanze si guarda qualcosa tutti insieme. Torneremo a parlare di ragazzi e TV, lo faremo tra circa 15 minuti dopo la pausa del traffico delle 16:45, perché sarà con noi il nostro amato e adorato Federico Taddia. Tutto questo più tardi, poi dalle 17 alle 18 l'appuntamento con RadioTube. Ne approfitto ancora qualche secondo per ricordarvi il numero per i vostri SMS: 349-238-6666, che va benissimo anche per il WhatsApp, è 349-238-6666, accounti Twitter @MartaCagnola, hashtag sempre per chiusa Twitter, cancelletto ISDV e poi anche cancelletto RadioTube, perché saremo insieme con RadioTube sempre in diretta dalle 17 alle 18. Invece ora nel nostro Sabato del Villaggio è il momento di aprire il capitolo dei consumi. Voglio un paio di scarpe nere nuove, poi vorrei un biglietto aereo, però anche del treno per andare in un posto carino, poi vorrei una lampada nuova per il soggiorno. Un sacco di cose io voglio per Natale. Maria Luisa Pezzali, buongiorno, tu cosa vuoi per Natale? Perché Mariah Carey si accontentava. Sì, eh? Assolutamente, beh, dipende anche insomma dall'oggetto, ecco. Perché lei voleva solo uno per Natale, dipende anche. Dipende da quest'uno, hai ragione, insomma. Io voglio un di... casco per la bicicletta. Bello, bello, bello, bello, anche questo mi sembra bello e utile. È ovvio, abbiamo cominciato da un mese a parlare di regali di Natale al Sabato, esatto, del Villaggio, abbiamo cominciato in tempi utili. Adesso c'è ancora possibilità di fare qualcosa? Beh, siamo al rush finale ormai, sì, bisogna dirlo, anche se la mia lista, ahimè, è ancora piuttosto lunga, devo spuntare ancora un po' di voci e sono già in ansia, io visto domani... che è sabato, insomma. Io domani farò veramente, non ho idea, mi sveglierò la mattina, andrò però ad aspettare che aprano i negozi. E vabbè, però siamo positive, ma perché questo finalmente è il Natale positivo, il Natale della ripresa. Lo abbiamo anticipato mesi fa, ti ricordi Marta? Avevamo ragione, insomma, è tornata, lo dicono tantissimi indicatori, è tornata la voglia di comprare. Però ecco, questa è la cosa positiva, in modo ragionato, consapevole e responsabile, insomma, come ripetiamo spesso. Grande protagonista, bisogna dirlo, degli acquisti di questo Natale l'e-commerce. Moltissimi regali sono stati comprati online. Io ho visto gli ultimi dati: 27 milioni gli ordini conclusi via internet, 3 miliardi e mezzo di euro tra novembre e dicembre, più o meno, sono stati spesi per gli acquisti online. Credo che ciascuno di noi, insomma, abbia una quota di regali che in qualche modo ha comprato online. Ebbene sì, i regali autoregali, ti confesso. Ah, ecco. Magari sfruttando anche tutte le offerte che ci sono state. Le abbiamo segnalate, il Cyber Monday, Black Friday, tutte. Esattamente. I tempi di consegna ormai sono strettissimi, non dimentichiamoci però di fare attenzione ad una serie di cose utilissimi a questo riguardo, utili anche, insomma, non solo per il Natale, anche per i prossimi mesi. Ad esempio, tra poco si apre la stagione dei saldi, quelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Dino Cimaglia, buon pomeriggio. Buongiorno Maria Luisa, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Allora, voi avete stilato una serie di consigli veramente molto utili, ricordiamoli agli ascoltatori. Bene, allora, innanzitutto la prima cosa che bisogna fare, soprattutto per quel che riguarda lo shopping online, l'e-commerce, è innanzitutto guardare, la prima regola è non farsi prendere dalla frenesia dell'ultimo momento, perché purtroppo, come molte volte accade, ci si riduce sempre agli ultimi giorni per poter fare gli acquisti di Natale, e molte volte si incappa appunto in acquisti inconsapevoli e quindi beni futili e comunque non troppo ragionati. L'altro errore in cui spesse volte si cade nel non guardare molto alla qualità del prodotto che si sta acquistando, quindi alle caratteristiche, quanto più che altro si guarda al prezzo, pensando che così erroneamente si fa un risparmio. In realtà la cosa importante è guardare se poi le caratteristiche tecniche, soprattutto per le tech, rispettano quelle che sono le mie concrete esigenze. Questo perché poi purtroppo, quando si riceve il bene a casa, magari si scopre che non ha determinate connessioni che oggi sono utilissime per poter essere connessi alle varie apparecchiature telefoniche o la TV. Con specifico riguardo invece a quelle che sono le brutte sorprese, quindi quello che accade poi dopo l'acquisto, quando si riceve il bene a casa, dobbiamo innanzitutto analizzare e provare a testare immediatamente il prodotto. Questo lo diciamo sempre perché molte volte capita che si fa un regalo, viene dato il regalo alla persona a cui lo si vuole donare, e questa magari il prodotto lo apre soltanto dopo alcuni giorni, dopo, lo ricordiamo, 14 giorni dall'avvenuta ricezione del prodotto che ho acquistato, decade il diritto di ripensamento. Non parlo volutamente di difetto di conformità, ma parlo semplicemente del fatto che magari quel bene non corrisponde a quelle che erano le mie aspettative. Decorsi inutilmente questi 14 giorni, il consumatore non ha più delle garanzie, quindi il prodotto lo deve tenere così com'è. Quindi non dobbiamo tenere i pacchetti chiusi, dobbiamo aprire e controllare. Ma dico una cosa veramente forte: dobbiamo aprire il pacchetto e dobbiamo provare il prodotto, dobbiamo provarlo anche per più giorni, perché la norma fa salvo l'utilizzo, quindi vuol dire che se io quel prodotto, anche se l'ho usato, l'ho testato, lo rimetto nel suo imballo nel caso in cui non sia soddisfatto dell'acquisto, e lo rimando al fornitore, al venditore, quindi la persona che materialmente me lo ha venduto, non dovrò pagare nulla, quindi se non le spese di spedizione per rimandarlo indietro. Beh, assolutamente un diritto che va assolutamente divulgato ed esercitato, insomma, nel caso. In questo periodo, Cimaglia, di boom dell'e-commerce, ricevete molte richieste di aiuto, per così dire, dai consumatori? Beh, guarda, in realtà noi abbiamo i nostri sportelli sotto assedio più che altro dal 26 in poi, nel senso che in questa fase degli acquisti molti ci contattano più che altro, ecco, per conoscere qual è il venditore più affidabile, mentre i problemi purtroppo si scoprono sempre dopo averlo acquistato e averlo ricevuto. Quindi siamo ancora in una fase di tranquillità, i nostri consulenti sono abbastanza sereni in questo periodo, perché assolvono più che altro una richiesta di informazioni generica su su come faccio a individuare un venditore se è solido e non mi filo una truffa, un prodotto, un pacco, come si dice spesso, mentre in genere i momenti di affluenza maggiore ce l'abbiamo proprio dopo le festività, quando invece i consumatori, ahimè, molti scoprono che magari il prodotto che hanno ricevuto non era quella che si aspettavano. Quindi in questa fase il nostro impegno è quello di fare informazione, quindi che facciamo attraverso il nostro sito, attraverso i nostri sportelli dedicati che sono sul sito internet dell'Unione Nazionale Consumatori, e quello che stiamo facendo oggi con voi, insomma. Consumatori.it, molto semplice il vostro sito. Grazie a Dino Cimaglia per essere stato con noi e buone feste. Grazie a tutti voi, buone feste, buon Natale. Auguri, ciao. Allora, dopo i consigli per spendere bene online, però non solo, perché questi consigli sono veramente universali, io direi che è il momento per le nostre strategie anticrisi. Quindi dovremmo avere al telefono con noi la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Cri. Questa volta quale strategia anticrisi ci suggerisci a pochi giorni dal Natale? Concentriamoci sui nostri acquisti per cena e pranzo di Natale e magari anche per qualcosina dopo, cioè come non sprecare il cibo, perché di fatto, secondo alcuni dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel mondo noi sprechiamo più di 1 miliardo di tonnellate di alimenti, il che vuol dire che non solo sprechiamo quegli alimenti e li buttiamo via, ma anche tutti i gas a serra che sono stati utilizzati per produrli e poi quelli per smaltirli. In Italia ogni anno una famiglia spreca circa 50 kg di cibo, che più o meno valgono 316 euro. Allora, sotto Natale noi sappiamo tutti che abbiamo questa voglia anche, cioè c'è più gente in casa, spesso non sappiamo fare bene i conti, per cui le porzioni per 4, bene, siamo in 8, raddoppiamoli, ma poi aggiungiamoci pure qualcosina perché magari vogliono il secondo giro. Assolutamente no, non funziona così. Mi ha aiutato Ugo Alciati, che è uno chef stellato del ristorante Guido della riserva bionaturale di Fontana Fredda, quindi lui queste cose le sa, anche perché di fatto se sbaglia in cucina i costi salgono molto più velocemente che in casa. E quindi il primo consiglio è ovviamente la lista del menù. Uno lo pensa, lo idealizza, lo mette giù e quindi sì, possiamo anche lasciarci andare dei 3x2, però stiamo attenti che di fatto a tavola se sono 10 persone non si trasformano in 20, così giusto perché c'era l'offerta al supermercato piuttosto che al negozio di fiducia. Pesare tutte le quantità, perché a occhio di solito magari siamo più abituati a cucinare per la nostra famiglia più ristretta, quindi lì perdiamo un pochino di vista la quantità, quindi conviene ripesare, tenendo conto che la quantità di cibo che ognuno di noi può mangiare è all'incirca di 600 grammi. Bella quindi, questa, 600 grammi a pasto per persona massimo? Massimo, perché altrimenti dopodiché ci si appesantisce, ma 600 grammi sono più che abbondanti, non solo per nutrirci ma anche per sentirci sazi, il che significa che se abbiamo deciso di fare 5 portate, dobbiamo pensare che a crudo dobbiamo stare sui 100-110 grammi di qualsiasi cosa, tenuto conto che la carne perde circa il 30% dell'acqua, però tutto il resto aumenta in volume perché di solito invece l'acqua ce l'aggiungiamo, quindi in questo modo così riusciamo anche a muoverci sulle quantità che le varie ricette, quelle più strane o anche quelle più tradizionali, comunque ci consigliano. E a muoverci anche dopo esserci alzati da tavola, insomma. Sì, esatto, riuscire a sganciarci dalla sedia. Poi dopodiché lui consiglia privilegiare il riso alla pasta, perché nel caso in cui abbiamo comunque esagerato, il giorno successivo un timballo di riso diventa subito un nuovo piatto. Poi conserviamo quello che avanza comunque in contenitori chiusi, in frigorifero, fatto bene eccetera, non si butta il piatto avanzato, spesso lo fanno i mariti che li infilano direttamente in frigo così com'è, perché così com'è poi non te lo ritrovi il giorno dopo, peggio ancora se poi lo vai a vedere 2 giorni dopo, ecco, così com'è tanto vale buttarlo via direttamente, metterlo invece meglio ancora sottovuoto, perché così toglie tutta l'aria e si conservano meglio a quel punto anche per una settimana, 10 giorni. Infine, questi invece i consigli dello chef per il 2016, cui io tento proprio a dire ha ragione: abituarsi a fare la spesa una volta alla settimana e una volta al mese. Sappiamo, abbiamo tutti molta fretta, lo sappiamo, però di fatto spendere 500 euro tutto in una volta al super, saranno contentissimi i signori dei supermercati, però fa sì che nell'arco di questo mese molto il cibo che abbiamo comprato è invecchiato. Allora è meglio andarci una volta alla settimana, così si può rinnovare, magari abbiamo anche, come dire, possiamo anche soddisfare dei desideri che ci vengono un po' più lì per lì senza doverli prevedere un mese con l'altro. Qualità, tanta qualità, e con cui insomma chiudo, perché la qualità è importante, quindi è inutile prendere una ragosta così e così piuttosto che un simil tartufo. Andiamo a prenderci il cappone, ma che sia buono, sia stato allevato bene, che sia, se abbia avuto una vita felice, così la sua carne è più morbida, e comunque insomma nell'alimentare oggi è meglio privilegiare la qualità alla quantità e soprattutto al finto chic, che poi alla fine magari non è così garantito come sembra. Lo chef ci dice cosa sarà il cibo da rivalutare nel 2016, ci dice le uova. Le uova, perché non è vero, o perlomeno se non ne mangiamo 12 tutte in una volta non fanno alzare il colesterolo, e in linea di massima magari rinunciamo più allo zucchero ma diamoci alle uova perché fanno bene. Anche qui, in questo caso, questo è il mio consiglio, che siano da galline felici e non in batteria. Grazie, grazie Cristina Lazzati, buone feste! Grazie Cristina per essere stata con noi. Ciao Cristina. Grazie a voi e buone feste a tutti. Maria Luisa, adesso che ho aggiunto anche la macchina per il sottovuoto alla lista dei regali di Natale che vorrei ricevere. Io l'ho già presa, non dico per chi, perché magari ho i parenti che mi ascoltano. No, infatti non diciamo niente, però è già bella, sotto bella, mi piace molto. Molto contenta. Maria Luisa, ultimo consiglio, essere a bere anche nei giorni di festa. Domani, come sempre, alle 22. Ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Ciao ragazzi, eccomi atterrato nel mondo della musica. Qui per strada è una gran festa. Per capire quello che sta succedendo ho chiesto aiuto a un amico DJ, Albertino. Ciao Alberto! Ciao Fede, come stai? Omar Pedrini. Ciao Fede, ciao ragazzi. Giovanni Allevi. Ciao, ciao a tutti, ciao Fede. Malika Ayan. Ciao Malika. Ciao Fede. Nina Zilli. Ciao Fede, eccomi. Frankie Energy MC. Ciao Frankie. Ciao a tutti, ciao Fede, ben arrivati alla festa. Big Bang, il viaggio nella musica continua. In TV il nostro Federico Taddia. Io adesso do l'appuntamento per bene ogni lunedì dal 21 dicembre alle ore 21 su Dea Kids Sky 601 e su Sky 3D Sky 150, così ho fatto anche La Signorina Buonasera, insomma uno dei sogni della mia vita l'ho realizzato in questo momento. Allora, prima di salutare il nostro ospite, do il benvenuto a Daniele Bellasio, che è già venuto in studio. Beh, è straordinario, solo come fan, come fan di Federico, di Omar, di tutti gli ospiti che avrà Federico Taddia nel suo Big Bang. Federico, ciao, eccoti. Ciao Marta, ciao Daniele. Mi faceva piacere parlare di questo tuo appuntamento natalizio. Ogni tanto fai qualche incursione televisiva, sempre per i ragazzi. Mi piace molto, Fede. Ma sì, c'è questa astronave che, insomma, siamo partiti con Margherita Hack, siamo arrivati a Omar Pedrini, capito? Questo è stato un po' il viaggio in 8 anni, e mi piace perché mi dà la possibilità di lanciare sassolini, che è poi la cosa che mi piace fare quando lavoro con i più piccoli. Sono tanti anni che lavori con i più piccoli. Io voglio ricordare gli ascoltatori di Radio 24, sicuramente non se lo sono dimenticato, tanti tanti anni fa, Papà Pero, che bello, quando facevi questa trasmissione per ragazzi era proprio bello. Non so se Daniele tu l'hai mai sentita, perché sono veramente passati tanti tanti tanti anni. Nonostante la mia giovine età, non lo ricordo. No, però Federico, forse uno dei bambini che ha partecipato. Sì, forse. Ma no, sono stonatissimo, peraltro. Ah no, ma non cantavano. No, era normale. Qualcun altro ha cantato, se ricordo bene. Sì, ma lasciamo. No, perdere. no, vabbè. Fede, fare la TV per ragazze è qualcosa di importante, delicato. Tu hai fatto anche screensaver per tanti anni. Qual è il modo giusto per fare la TV per i ragazzi? E poi ti chiederò anche il modo giusto per guardarla, ragazzi. Ecco. Ma guarda, la cosa che a me piace nel fare la TV per i bambini è riuscire a gestire, nel senso bello della parola, la loro imprevedibilità, no? Perché vengono, passano, fai fatica comunque a percepire, fai fatica a captare cosa interessa. Quindi stare a questo gioco è molto divertente. Quello che da sempre cerco di fare io è usare un po' una mia grammatica, no? Che è parlare anche di cose complicate, ma in maniera semplice, vuol dire in maniera banale. E questa roba loro la rispettano molto, cioè tu che gli proponi comunque cose difficili senza nascondere la difficoltà diventa quasi una sfida e ci stanno al gioco e diventa, diventa bella da fare, diventa bella da guardare, coinvolge anche la famiglia e i genitori comunque nel, nel guardare insieme quell'elettrodomestico è comune perché trovi qualcosa che interessa sia ai più piccoli che ai più grandi, quindi è un modo divertente di fare TV. Tu cosa guardi con i tuoi ex bambini? Perché ormai i tuoi figli sono grandi. Ciao, esatto. Ormai... sì, sì, ti querelano. Se lo no, infatti, infatti no, ex bambini, specifichiamo, perché io me li ricordo piccoli, ma perché ci conosciamo da tanto tempo. No, beh, si guarda, insomma, adesso siamo nella fase che si guardano molti film insieme, si guarda lo sport. Ho una tradizione natalista che è quella di guardare Elf, che oh, è questo film che bello. È assolutamente surreale, ma secondo me a noi piace molto, cioè, ridiamo ancora, ma veramente credo che sia il 15° anno di visione di Elf, l'abbiamo visto ancora prima che fosse girato probabilmente, e quindi no, ci sono anche questi momenti che fanno parte un po' del, del rito, però così è una fruizione quasi adulta perché sono grandicelli ormai per... Bello, bello, mi piace. Ma quindi questa volta che tipo di storie racconti? Siccome la cosa bella del tuo modo di fare televisione è che poi alla fine racconti sempre delle storie. Questa volta? Questa volta abbiamo declinato un po' la divulgazione scientifica con cui ho iniziato questo progetto, parlando di musica, per mostrare ai ragazzi che la musica non è solo talento, non è solo X Factor, non è solo The Voice, che vanno benissimo, però oltre al talento dietro c'è altro, che è scienza, che è cultura, che è storia della musica. Adesso arrivare su quel palco ti può essere utile anche conoscere quello che c'è dietro a uno strumento, quello che c'è dietro a fare musica. E qui abbiamo fatto proprio un viaggio nei generi musicali, coinvolgendo un po' di amici, abbiamo citato Omar Pedrini per il rock, Malika Ayane per il pop, Frank I Energy per l'hip hop, Albertino per la musica dance, e loro portano frammenti di storia del loro genere, anche proprio cultura scientifica, c'è Levi che parla della matematica del pianoforte, per esempio, Albertino che spiega cos'è il BPM, quindi il tempo, il ritmo, è stato molto divertente, e tanta storia della musica, quindi anche riferimenti, il vinile, spiegare a un bambino cos'è il vinile, che sembra banale, ma Marta, quella è la mia materia. Non lo sanno più cosa sia un vinile, quindi... ma torna! Torna, sì, però loro non hanno ancora percepito, nel prima e nel dopo, sai, perché... Non mi spiego come tu non abbia chiamato Daniele Bellasio per spiegare la musica. Assolutamente. Ma mi prende in giro perché io ho dei gusti un po' particolari, sono un po' fuori dal mondo musicale. Cosa ci consigli invece? Cosa guardiamo con i ragazzi queste feste di Natale? Tu guardi Elf e sarebbe carino. Infatti io, sì, Elf in loop, allora questo punto proverò anch'io, ti dico che effetto mi fa. Tu cosa ci consigli invece, visto che noi chiediamo al Sabato del Villaggio un sacco di consigli ai nostri ospiti? Sono andato a studiarmi un po' al palinsesto, ho fatto compiti perché sapevo che mi avresti, io non sono invito invece uno tutti che... comando tutti a bacchetta. Io mi sono segnato col pennarello alcuni appuntamenti, tipo il 26 dicembre c'è su Rai 3 c'è Monster & Co, che è uno dei miei grandi miti della Disney, e quindi questo me la guardo. Ci sono i grandi classiconi e sai, non invento e non vi sto dicendo nulla di nuovo, no? Il classicone è un bel momento perché è accomodante, accogliente, si mette lì a vedere insieme un qualcosa che un po' lo si conosce, non è tanto impegnativo ed è un momento di condivisione. Credo che, giusto per fare un inno alla retorica, però riuscire a rendere la TV, almeno per il periodo delle feste, qualcosa di condivisibile in casa, credo che sia il valore aggiunto della TV di questo momento. Tantissimi film, tutti belli, c'è Frozen che torna il 1° gennaio in prima serata. Sì, l'abbiamo detto con Aldo Vitali, straordinario. Frozen che ha conquistato le bambine, ormai vendono più giocattoli di Elsa di Frozen di Barbie, che a me questa cosa fa un po' impressione, ma pare sia davvero così. E poi grandi classici tipo il circo, che comunque a me piace, sono di quelli a cui il circo piace, quindi c'è sempre l'occasione di rituffarsi. Mi sembra che sia la vigilia di Natale il circo di Monte Carlo su Rai 3. Insomma, quella televisione lì che ti diverte, ma che non ti non troppo divergente. Ecco, credo che le feste abbiano bisogno di quella cosa lì. Io intanto segnalo che dal 21 dicembre, dal lunedì al venerdì, su Italia 1, dopo i Simpson, ci sarà questo Adventure Time, serie animata che in Italia avrà la sigla di Jovanotti, che non ha mai cantato la sigla di un cartoon. E, beh, insomma, è la sua prima volta. Eh sì, è la sua prima volta, quindi ormai... Mentre questo forse può interessare a te, su Mediaset Extra viene replicata la saga di Fantaghirò. Ah, beh, senti, Fantaghirò ci mancava. È vero, Fantaghirò. Sì, lo sai, qui, poi tanto vino d'oro, anche ci sono un paio di speciali sempre legati al Natale. Insomma, il problema non è trovare cose belle, cose piacevoli. Stavo cercando il Mago di Oz, non lo trovo quest'anno, sono un po' preoccupato, bisogna fare un appello tra i vari palinsesti. Non può non esserci il Mago di Oz, credo che insomma, non c'è Natale senza Mago di Oz. No, beh, mi piace parlare anche con serenità del Fantasia, l'abbiamo detto. Fantasia non ci sarà Fantasia. Devo dirti che Fantasia piace sempre più agli adulti che ai bambini, no, secondo me. Alla fine. Dai, è il nuovo arte. Sì. Al nuovo arte, al cinema lì. No, adesso vabbè, partiamo con le nostalgie. Do you remember? Federico, mi piace l'idea di parlare anche serenamente, di guardare la TV insieme ai bambini, che è una cosa che... A volte è anche importante. Complicata. Ecco. È vero che a volte è complicato, però a volte insomma, sono i punti d'incontro. Vabbè, ieri sera, per esempio, sono andato a vedere Star Wars con mio figlio di 12 anni, sai, sono punti d'incontro, perché ognuno se lo vive a suo modo, però ci sono poi spazi di condivisione, ed è quello anche il rapporto tra piccoli e grandi, no? Non può essere sempre un rapporto a senso unico, perché non esiste. È bello trovare campi comuni su cui ci si può mettere in gioco da grande e da piccolo. Quindi guardare e poi magari parlarne, è bello così. No, per capire quante cose in comune e quante no. Esatto, cosa sai, a volte si guardano film dove io capisco cose che non capisce mio figlio, ma anche viceversa. Certo. Quindi sono anche sane lezioni dal basso. Ti chiedo un'ultima cosa rapida, anche se è una domanda. In un momento in cui tutti i ragazzi guardano YouTube più che la TV, come fai a intercettarli parlando in TV, tu, Fede? Ma allora, come faccio a intercettare i ragazzi? Dici, sì. Un po' sperimentando nuove forme di televisione, che per esempio il satellite ti permette di fare, formati più brevi, palinsesto che è anche ripetitivo, quindi replichi in orari, certo, in orari diversi, vai anche incontro a quelli. Poi c'è anche la rete, sai, una cosa non esclude l'altra, si affiancano, è vero che guardano sempre di più la rete, però il target a cui mi rivolgo io è ancora un po' più affezionato alla televisione. Certo. Però proponendo cose che vanno un po' incontro a quel sapore lì, nel ritmo, un po' nel linguaggio. Però deve rimanere il racconto, per me quello è fondamentale. Però anche in 6 minuti quindi, puoi fare un racconto. Quindi TV, rete, musica e anche radio, perché con te, Fede, ci sentiamo la mattina di Natale, ho saputo. Adesso esatto, uno speciale con le lettere scritte a Babbo Natale, lettere dei bambini. Vedi. Credo che sarà divertente. È il momento Bellissimo. Del GR, grazie Federico. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco con RadioTube.